aprirono il fuoco. Una raffica fece volare il suo berretto, ferendolo alla caviglia. I soldati gli gridarono l'ordine di arrendersi. Era ferito. L'asma gli impediva il respiro. È possibile che io muoia domani e nessuno rimarrà sulla terra che mi abbia compreso interamente. Certi mi giudicheranno peggiore, altri migliore di quello che sono. Certi diranno che ero buono, altri una canaglia. Due opinioni ugualmente sbagliate. Fu portato in una piccola scuola di Laighera. Là passò tutta la notte. I generali proposero di ucciderlo. Nessuno si oppose. L'ordine fu trasmesso e il tenente Mario Terán fu estratto a sorte per uccidere il comandante Che Guevara. Ucciso in uno scontro a fuoco, comunicarono ai giornali i ministri di governo. Esposto e innalzato per la morte. Vedetemi sfortuna, onori, trascinato eternamente. Giorni, età, nubi, che farete con me? Quando giunsero all'aula della scuola, il Che si sollevò, vide il tenente e disse: «Lei è venuto ad ammazzarmi». Il tenente abbassò la testa e non rispose. Non trovava il coraggio di sparare. Gli occhi del Che brillavano intensamente. «Stia calmo», disse al tenente. «Punti bene». «Dov'è nascosta, ahi, quella morte che nessuno ha potuto vedere? Impossibile e silenziosa». Il tenente chiuse gli occhi e sparò una raffica. Il Che cadde a terra contorcendosi. Perdeva molto sangue. Il tenente sparò un'altra raffica. Lo colpì al braccio, alla spalla, finalmente al cuore. Avvolsero il corpo in un lenzuolo. Un cubano che all'epoca di Batista a La Habana aveva gestito un cabaret si avvicinò al comandante morto e gli diede uno schiaffo sul volto. Il corpo fu esposto su una tavola. La testa pendeva all'indietro, gli occhi aperti, nudo, allungato nella vasca di un lavatoio, illuminato dai lampi dei flash. Poi gli tagliarono le mani a colpi d'ascia per impedire che fosse riconosciuto, ma mutilarono ancora il corpo in altre parti. Uno dei soldati gli tolse i mocassini che un compagno nella selva aveva fabbricato per il Che, ma poiché erano molto sciupati, non gli servirono. La sua morte ti sembrerà lieve, Aleida, se rivivi la tua vita con lui. Ti sosterrà la memoria, tempo sospeso, spazio dei ricordi. Volevo diventare guerrigliera. Ero andata a studiare in città, a Santa Clara. I miei in campagna coltivavano la terra. Stavano bene in confronto ai tanti che non avevano niente. All'università cominciai a frequentare un gruppo di studenti. Troppa ingiustizia a Cuba, dicevano. Gli stranieri si mangiano le nostre ricchezze. Siamo schiavi. E parlavano del Che. Guidava la guerriglia nella Sierra Maestra contro i soldati di Battista. Fidel lo aveva nominato comandante. I miei pensieri volavano al Che. Così sono entrata nel movimento. Hanno cominciato ad affidarmi qualche incarico, volantini, contatti. Un giorno mi consegnarono una bomba. Dovevo aspettare l'ordine di portarla ai compagni che combattevano nella Sierra. La nascosi in casa dei miei, incosciente. A che rischio li avevo sottoposti? Aspettavo quel giorno con ansia. E quel giorno arrivò. Mi diedero da portare anche un bustino imbottito di soldi. Dovevo indossarlo sotto il vestito. Mi scortavo un compagno, ma arrivare dal Che non era facile. Giorni di cammino, rischi di furti, rapimenti, violenze. Camminavo con difficoltà, il busto era pesante. Ma lo avrei incontrato. Ci fermammo al primo accampamento. Il Che lo aveva costruito nel territorio liberato di Las Villas. Abbiamo dormito per terra e all'alba verso il Pedrero, dove si trovava il Che con i soldati. Grazie. Avevamo bisogno di questi soldi. Non era facile portarli fin qui. Che, Voglio diventare guerrigliera. Guerrigliera? Per iniziare puoi aiutare in infermeria. Sono già da 2 anni nel movimento. Dammi una possibilità. Fuori dalla Sierra ti conoscono. Possono farti domande. Su di me. Su quello che sto organizzando. Possono torturarti. Sai scrivere? C'è. Studio all'università, a Santa Clara. Sarai la mia segretaria. Dovrai scrivere tutto quello che dirò. Ogni particolare dei miei pensieri. Dei tuoi pensieri? Quando li metterò in parole. Ma io voglio combattere come gli altri. Vedremo. Intanto impara a sparare. Le pallottole sono preziose, non bisogna sprecarle. A combattere si impara. Siamo in pochi. Se vogliamo vincere, dobbiamo essere astuti. Guarda e cerca di fare come me. Nella Sierra Maestra proseguiva la guerriglia, in attesa dello scontro decisivo con l'esercito di Batista. Il CE immaginava piani di vittoria per l'immediato, ma lavorava a progetti per il tempo di pace. Nei momenti di tregua mi dettava, ma a volte non capivo. Parlava tra sé, come se io non ci fossi. Rileggi? Non so se ho capito bene. Gatte, piglia. Caterpillar! Ho detto caterpillar. La maestra, pedagoga, vuole fare la guerrigliera e non sa neanche che cos'è un caterpillar. No, non lo so. E allora? Divenne un gioco fra noi. Quando succedeva qualcosa di simile mi prendeva in giro ricordando l'episodio. Non sapeva neanche cosa fosse un caterpillar. Va bene, non lo sapevo. E allora? Si avvicinava il tempo della battaglia decisiva. Il CE preparava il grande scontro di Santa Clara. I suoi 800, gli altri 10.000. Eroismo? No. Calcolo, astuzia. Avanzavano nella sierra in silenzio, a marce forzate, cercando di non cadere negli agguati tesi dei soldati. Un giorno successe un fatto. Dopo lui mi chiese di scriverlo. Da allora, forse, iniziai ad amarlo. Seguiva il nostro gruppo in mezzo alla foresta un cucciolo di pochi mesi. Dall'accampamento non aveva voluto lasciarci. Era per gli uomini stanchi un momento di gioia. Si affiancava con piccoli mugolii e strilli acuti. Era necessario non essere scoperti. Ma il cucciolo, per il terrore di essere abbandonato, guaiva, forte, sempre più forte. Troppo. Ricordo il mio ordine tagliente. Felix, fai in modo che non abbai. Strozzalo. Felix mi guardò con occhi assenti. In mezzo alla truppa estenuata, al centro di un circolo, stavano lui e il cane. Con lentezza infinita, Felix tagliò una liana, la passò intorno al collo del cucciolo e strinse, finché questo, dopo un folle agitarsi, non rimase immobile, la piccola testa abbandonata sopra i rami del monte. La sera dopo arrivammo a una casa in un villaggio del Mar Verde. Si cucinò un porco, c'erano delle patate. Un contadino suonava la chitarra, altri cantavano. Felix mangiava seduto a terra e lasciò un osso. Un cane della casa si avvicinò mansueto a prendere quell'osso. Felix gli mise una mano sulla testa, il cane lo guardò e lui lo guardò a sua volta. Noi tutti incrociammo gli sguardi e rimanemmo in silenzio. Insieme a noi, col suo sguardo mansueto, attraverso un altro cane, ci osservava il cucciolo assassinato. Erano ormai vicini a Santa Clara. Un'enorme massa armata li aspettava a rendere più dura la futura battaglia e la marcia sfibrante nella sierra. Le zanzare facevano impazzire, tutti avevano la febbre. A volte per l'asma il CE non riusciva a respirare. Da bere solo acqua putrida mescolata a fango. Piedi piagati, scarpe a brandelli. Più niente da mangiare. Di notte il gelo che teneva svegli. E il buio che nascondeva agguati. Ci inseguivano tank e caterpillar. Adesso li riconoscevo. Nei paesi, sotto la mitraglia degli aerei, ci appiattivamo ai muri delle case, a raggiungere di corsa un portone per sporgerci a sparare. Io sempre accanto a lui, prendevo appunti sotto il fuoco. Divennero i suoi diari di guerriglia. Finalmente arrivammo a Santa Clara. Ci avevo studiato, la conoscevo bene. Guidavo il CE di strada in strada. Ci fermammo nel palazzo dell'università, da lì diramava i comandi. Mandò i compagni avanti, a gruppi, con gli ultimi anche lui. Avanzava a rischio della vita, secondo un percorso irregolare, riparandosi e gettandosi a sparare. Io a distanza lo seguivo. All'improvviso, sparando, appare un tank. Il pericolo è grande. Il CE, trascinando un gruppo di compagni, balza avanti. Il tank, impaurito di quei pochi ragazzi sparpagliati sulla strada, si ferma. Ma anche il CE si ferma. Gli era caduto il basco. Lo guarda, incerto se tornare a raccoglierlo. No! Urlo. Ma il frastuono cancella la mia voce. Lui, come per gioco, salta al centro della strada. E il tank, pensando forse a un'imboscata, fa marcia indietro e si allontana. Incurante, col suo berretto indosso, il CE prosegue tra i palazzi, alla ricerca del nemico da stanare. Oh Santa Clara, città amata, cuore di Cuba, bellezza straziata dalle bombe, dilaniata dagli scoppi traditori. Per liberare Santa Clara si doveva prendere un treno blindato, carico d'armi e di soldati. Un guerrigliero solo bastò, il Vaquerito. Lanciò una bottiglia di benzina. I vagoni si incendiarono in un inferno di fuoco. I nemici finalmente cedettero. Sudditi di un governo schiavista si arrendevano, sempre più numerosi, senza condizioni. Nell'assaltare una caserma, balzando da un tetto, si era rotto un braccio. I compagni lo avevano trascinato nell'unico ospedale ancora aperto. Gli fecero un bendaggio, ma rifiutò l'antitetanica. Temeva un attacco di quell'asma che spesso lo affliggeva. Con questo non ti peserà. Dopo, quello scialle divenne un simbolo per noi. Lo portò sempre con sé, diceva: mi difendere la morte. Il braccio ti fa male? Col tuo scialle non sento più il dolore. Ma non lo posso alzare. Non riesco a sistemarmi i capelli. Puoi farlo tu? Erano scuse, timide richieste di carezze. Sei stata coraggiosa, Santa Clara. Ti gridavo di ripararti, ma tu sempre dietro di me. Stavo attenta al mio comandante. Volevo proteggerti dalle pallottole. La maestra, pedagoga dai poteri magici. Tripudio la vittoria a Santa Clara. Tristezza il sacrificio dei caduti. Il CE ricorderà nell'ora della gioia vittoriosa il Vaquerito, l'amico fedelissimo. Con un gesto aveva gettato contro il treno la bottiglia di benzina e la sua vita. Ma adesso si doveva far cadere l'Avana. Mentre Batista abbandonava Cuba come un ladro e Fidel rifiutava la giunta militare che ne aveva preso il posto, il CE raggiungeva l'Avana marciando giorno e notte con i suoi e conquistava l'ultima fortezza gremita di soldati, impazienti di andarsene e salvare la vita. La fortezza si chiamava Cavagna. La guerra era finita. A poco si tornò alla vita normale. Io continuavo a fargli da segretaria. Scrivevo tutto quello che dettava. Voleva dare a Cuba assetto di società civile. Diceva: a questo deve servire la rivoluzione. Per oggi basta lavorare. Ti va una passeggiata? Magari, c'è. Stiamo lavorando da 8 ore. Andiamo nei giardini. Nostri, possiamo finalmente dire. Guerrigliera, maestra, pedagoga, ma anche donna. Non ti avevo mai vista vestita così. Con le altre ragazze siamo andate a rovistare nella casa che ha abitato il generale e abbiamo preso i vestiti della generalessa. Bottino di guerra. Avete fatto bene. Andiamo. Era da tempo che non vedevo una donna vestita da donna. Ti piace? Bello, davvero. Ma a me le donne piacciono più intelligenti che belle. Una donna bella non può essere anche intelligente. Per fortuna qualche eccezione c'è. Gli uomini intelligenti invece è difficile che siano anche belli. Ma anche per gli uomini qualche eccezione c'è. Sai, prima di incontrare Fidel e di venire a Cuba con lui, in Messico avevo una moglie. Ah, ce l'hai ancora? No, quel matrimonio è finito da anni, siamo separati. Abbiamo una figlia però, Ildita. Adesso avrà 3 anni, credo. Sono venuto via appena nata. E chi è questa moglie? E chi era? Siamo separati da anni. Chi era? Un economista, molto intelligente. Mi ha spiegato molte cose per il futuro del paese. Non me ne hai mai parlato. Combattevamo e ti conoscevo appena. Ero una compagna. Coi compagni non parlo mai della mia vita privata. Ma eravate sposati e tu te ne sei andato. Non basta condividere nozioni economiche per mandare avanti un matrimonio. Sei troppo giovane, non puoi capire. Anche se mi provocava profonda antipatia, patteggiavo per quella donna, che di certo era bellissima se il cielo aveva scelta. Ero femminista, o forse ero solo gelosa. Rivediamo gli argomenti trattati. Dunque, il piano per il rilancio dell'agricoltura. Sì, sfamare le popolazioni contadine, ma anche portare i prodotti delle campagne nei mercati delle città. Sì, il mantenimento delle industrie che prima erano gestite dai nordamericani. Sì, integrare le vecchie aziende con nuove ipotesi produttive, per avere altre risorse oltre allo zucchero. Già, perché vedrai, adesso i nordamericani per metterci alla fame il nostro zucchero non lo compreranno più. Beh, d'altronde li abbiamo cacciati senza complimenti. Ma gli abbiamo pagato le terre al prezzo giusto, anche troppo. E poi comunque ora, dopo la guerra, la gente vuole vivere. Bisogna creare lavoro, è essenziale per la Cuba di domani. I giovani non vanno più in giro con le armi, vogliono lavorare. Vengono ogni giorno a domandare lavoro in ufficio. Bisogna integrarli nei piani industriali, devono poter avere una casa, una famiglia. E poi l'ultimo progetto, quel ripeti ogni giorno, quello culturale. Il più importante. Tutti devono poter imparare a leggere e a scrivere. Brava, hai scritto tutto. Comincio ad abituarmi alla tua voce e ai tuoi pensieri. Ora basta parlare. Godiamoci questa primavera, finalmente di pace. Fidel aveva una fiducia immensa nel Che. Gli affidò le riforme da realizzare in poco tempo. Non era facile passare dalla lotta armata alla vita civile e democratica. Al Che stavano a cuore i giovani, il futuro dell'Isola Nuova. La fortezza, in un momento, così sembrò, ma furono settimane, mesi di lavoro, diventò scuola di formazione. Nella periferia della città nacquero piccole fabbriche, come quelle che il Che aveva fondato nella Sierra Maestra. A La Habana si pubblicava una specie di rivista, La Cavagna Libera. Trattava temi culturali. Invitavamo attori a cantare e a recitare e personalità della cultura nazionale. Alla sera ci si ritrovava noi giovani. Una gioia parlare d'arte, di spettacoli. Si creò un centro cinematografico con l'aiuto dei compagni venuti dall'Europa e io intanto continuavo a lavorare con lui. Leggila. E poi spediscila. Cara Ilda, voglio divorziare. Ho conosciuto una bella cubana e voglio sposarla. Chi è questa bella cubana? Mi dici chi è? Chi è? Sei tu! Sei tu, maestra, pedagoga! Va a spedire quella lettera. Era timido il Che. Lo capì dopo. Un giorno andammo in un paese vicino per una riunione. Dopo, mentre per riposare ce ne stavamo seduti nei sedili posteriori di una di quelle macchine colorate, immense, una carcassa comoda, per la prima volta mi prese la mano. Il cuore mi uscì dal suo posto. Non sapevo che fare, che dire. Ero innamorata. Perdutamente. Quando se hable del valore stoico, la vita cabal profonda e clara, siamo rientrati, sin mencionar al guerrillero entrato in camera mia, estaremos diciendo in silenzio Che Guevara, mi amor. Il Che poi chiamò quel giorno, quando il giorno della fortezza conquistata, cuya fuerza inmortal la noche. Riforma agraria, la legge più attesa. Il CE accoglie e coordina proposte da chi coltiva la terra. L'oro di Cuba deve tornare dall'estero, diceva. Il nuovo governo coniò il denaro col volto del CE. La nostra casa era di tutti. Venivano i soldati dalla guerriglia a chiedere: che cosa faremo in futuro? Venivano le vedove, le madri dei tanti ragazzi uccisi. Come potevano vivere senza i loro uomini? Io gli dicevo di avere fiducia. Avrebbero ricevuto l'aiuto di Cuba. E poi venivano a frotte ragazze bellissime. Insistevano per incontrare il CE, disposte a concedersi. Lo capivo da come si presentavano vestite. Quelle non le facevo passare, per non far perdere tempo al CE. E per la mia gelosia. Ci amavamo. Rimasi incinta. Volevo quel bambino. Avrebbe fatto felice il CE. Ma ero fragile, stanca. Correndo per la fretta di tante incombenze, sono caduta rotolando giù per una scala. Lei ha abortito, mi hanno detto all'ospedale. Il CE non mi aveva accompagnato. Troppa gente avrebbe notato il suo arrivo. Ho capito dopo che fu giusto così. Ma in quel momento mi sentii abbandonata e preda di pregiudizi borghesi. Non ero sposata. Non me l'aspettavo da te. Non hai voluto tenere il bambino per il tuo pudore borghese, perché non sei sposata. Io lo volevo questo bambino. È stato un incidente. Lo volevo come lo volevi tu. Guerrigliera? Pedagoga? No. Maestrina! Soffriva per la perdita. Voleva quel bambino. Poi, con dolore, ci siamo spiegati e abbiamo ripreso ad amarci. Ma da quel momento volle definire la nostra storia. Lo sapevano tutti che stavamo insieme, ma facevano finta di nulla. I miei, quando andavamo da loro, ci costringevano a dormire separati. E finalmente arrivò la lettera che stavo aspettando. Hilda ha firmato il divorzio! Adesso ci sposiamo. Verranno i miei dall'Argentina e naturalmente Hilda dal Messico. Ha un sacco di cose da chiedere. Per la bambina? Per il Dita, certo, ma anche per se stessa. Vuole qualcosa in cambio? E noi la faremo contenta. È un economista. Può fare molto per la Cuba di domani. Ah, un'altra cosa, ma non credo che te ne importi. Al matrimonio non vuole che invitiamo la gente. Il giorno dopo eravamo su tutti i giornali. In prima pagina! Ci sposeremo il 2. Dobbiamo sbrigarci. Il 12 mi aspettano i compagni in Africa. Ho pianto, senza ritegno. Ma il CE era così. Tutto, anche la sua vita e i suoi affetti, si annullavano per la causa del popolo. Il giorno delle nozze, anche se ero una guerrigliera, volli apparire come una bella sposa. Non volevo rinunciare al sogno del vestito. Una mia amica sarta mi cucì un abitino bianco. Al collo le perle di mia madre. Il CE la solita divisa, camicia a tante tasche, nuova, verde oliva. Era il suo stile. Perfino il basco si era tenuto in testa quando siamo andati a casa di Alberto Castellanos, dove venivano a firmare testimoni. Pochi invitati, nessun brindisi. Per noi era un atto naturale. A poco la casa si riempì di gente. Compagni di guerriglia, responsabili dei progetti industriali, ragazzi dalle fabbriche, dai campi, mogli coi bambini in braccio, tutti a festeggiare quell'amore firmando il quaderno di nozze, perché il CE meritava quel focolare che per portare giustizia nel paese per anni si era proibito. Avevamo previsto pochi amici, ma la voce si era sparsa. E a tarda sera arrivò anche Fidel, protestando che non l'avevamo invitato. Ma Fidel, noi si pensava una cosa quasi clandestina. Fidel rise e si unì agli altri a festeggiare. Ha firmato, brindato e poco dopo se n'è andato. Il CE aveva sul viso l'allegria e anche un po' di ubriachezza. Così felice non l'avevano mai visto. Una Londra in tuo pecho, un volver a empezar, un deseo de estrella, un latir de borrón. La nostra gioia spensierata è durata 10 giorni. Il CE partiva per 3 mesi e non l'avrei più avuto con me. Doveva andare in Giappone, in Cina, in altri paesi lontani. Ogni tanto arrivava una lettera, una cartolina. Mia amata, ti scrivo da Hiroshima, quella della bomba. Nel catafalco che vedi sulla cartolina ci sono i nomi di 78.000 persone morte, ma si calcola che siano 180.000. È bene visitare questo luogo per lottare per la pace con energia. Un abbraccio, Ce. Era così il Ce, gli stava a cuore la gente. Altre volte invece mi mandava lettere che un po' mi facevano ridere e un po' risvegliavano la mia gelosia. Dal Marocco mi arrivò una cartolina. A lei Duccia, piccola Leida. Dall'ultima tappa ufficiale di questo viaggio ti mando un abbraccio da marito fedele. Col pensiero pensavo di mantenermi fedele, ma qui ci sono delle more che se lo portano via. Baci, Ce. Ti sei arrabbiata per quella cartolina. Ma tu sei la più bella delle more. Ti sono stato fedele, te lo giuro. Sì, col pensiero. E con i fatti. Mi prometti che un giorno ci andremo insieme in Marocco? Appena sarà possibile, sì. Anche se non ci andiamo non mi importa. Mi basta lavorare insieme a te. A casa gli preparavo la colazione. Il caffè a lui piaceva amaro. A fine settimana andavamo nelle miniere di nickel. Il nickel si usava per coniare le monete, ma come ben sapevano gli americani, anche per costruire corazzate. Durante la dittatura di Batista i minatori erano obbligati a lavorare fino ad abbrutirsi e ad ammalarsi. Nessun sostegno sanitario, baracche fatiscenti, poco e cattivo il cibo, una vita da bestie. E tutti analfabeti. Gli americani hanno sfruttato le nostre miniere per decenni e andandosene si sono portati via il brevetto. E i tecnici che sapevano metterlo in pratica? Come si fa? Abbiamo Eduardo, un ingegnere rimasto fedele a Cuba. Penserà lui a rimettere in piedi la miniera. E i minatori? Me ne occuperò personalmente. Sono medico, prima di tutto. Gli darò un'esistenza da esseri umani. Tutti potranno imparare a leggere e a scrivere. Il CE, quando nacque la nostra prima bambina, Leidita, era in Cina. Fu contentissimo, ma non smetteva di pensare al maschio. E arrivò Camillo. Quando l'ha saputo, mi hanno raccontato, uscì dal bagno senza neppure asciugarsi per correre da noi. Tanti i viaggi del CE per amore di Cuba, di quel popolo divenuto anche il suo. Più volte in Unione Sovietica per trattare gli scambi economici essenziali, dopo la chiusura americana che aveva messo l'isola alla fame, poi in Svizzera alla conferenza delle Nazioni Unite, nell'Algeria indipendente, poi ancora in Congo, Guinea, Ghana, Tanzania, Egitto, cercando di organizzare dappertutto gruppi di guerriglia, e a New York, all'Assemblea delle Nazioni Unite. Tante volte abbiamo ripetuto una massima del nostro poeta José Martí: ogni vero uomo deve sentire sul proprio volto il colpo inferto sul volto di qualsiasi uomo. Questi sono i sentimenti dell'intero popolo di Cuba, signori rappresentanti. Pensava all'America Latina, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Venezuela. Sentiva il richiamo di altri popoli oppressi, li sentiva fratelli. E a quel richiamo a Leida, dolce compagna, tremava, sapendo che lo avrebbe perso di nuovo. Ogni volta che il CE ritornava, rinascevo come l'araba fenice. Ma ogni volta, quando ripartiva, credevo che non l'avrei più rivisto. Questa è la nostra vita. Devi abituarti. Tu sei parte di me. Quando sei lontano, io vivo dimezzata. Come posso abituarmi? Dove un paese ha bisogno di me, io vado. Ma almeno dimmi per quanto tempo. Non c'è mai un tempo preciso, né sicurezza di vittoria. Ricordi la nostra guerriglia? Incertezze, ogni giorno. Ma eravamo insieme. Adesso tu puoi morire senza che io lo sappia. Oppure io morirò. E tu chissà dove sarai. Dove potrò essere più utile alla gente, lì io sarò. Lo so, ed è anche per questo che ti amo. Ogni tanto arrivava una sua lettera spedita chissà quando, chissà da dove, e chissà se ancora vivo mentre lo leggevo. Io sono un misto di avventuriero e di borghese, con l'ansia di realizzare il mio sogno, ma con un appetito terribile di casa. La casa è qui quando vorrai. I figli crescono. Non tardare troppo. Troverai ogni cosa ad aspettarti. Il tuo studio, il tuo caffè, i tuoi appunti, me. Quando me ne stavo a Cuba, nel mio covo burocratico, sognavo di fare ciò che faccio adesso. E adesso sogno di stare con te e coi bambini, che van crescendo inesorabilmente. Africa, terra ferita dall'imperialismo. La spedizione in Congo non era andata bene. Le truppe del CE si erano ritirate. Tante le differenze culturali, il territorio, il clima. Il CE era passato in Tanzania e lavorava al suo scritto Passaggi della guerra rivoluzionaria. Utilizzava i diari in attesa del momento adatto per realizzare i suoi progetti. Al CE Fidel aveva fatto arrivare una proposta, che io lo raggiungessi. Mi avrebbe raccontato nei dettagli le cause della ritirata, ma lui era contrario. La tua assenza da Cuba si noterebbe. Potrebbero spiarti per arrivare a me. E poi il tuo viaggio costerebbe denaro dello Stato. Ma se Fidel lo vuole... Fidel lo volle. Fu un viaggio strano, illogico nelle tappe, perché logico nelle cautele. Un compagno di fiducia mi accompagnava. A Praga mi diedero lo stesso appartamento in cui si era fermato lui mesi prima. Respirai l'aria delle stanze, cercando di vivere in anticipo il momento dell'incontro. Poi scalo al Cairo e finalmente arrivo in Tanzania. Era cambiato, quasi irriconoscibile anche per me. Niente barba né capelli, senza la sua inseparabile uniforme. Avevo paura che non ritrovassimo più la nostra intesa assoluta. Ma subito ogni incertezza scomparve. Era lui. Avemmo tempo per leggere, dormire, raccontarci i fatti di quando eravamo divisi. Scattava foto. Registrò con la sua voce favole per i bambini, che poi le conservarono come uno dei tesori più preziosi ricevuti dal padre. Poi ripartì per Praga e io tornai a Cuba. Qualche tempo dopo Fidel mi mandò a chiamare. Nel suo studio mi diede un taccuino. Me lo mandava il CE. Amore, è arrivato il momento di mandarti un addio che sa di camposanto, di foglia secca. Volevo farlo con parole che non arrivassero al margine del foglio, con quello che di solito chiamiamo poesia. Ma ho fallito. Non importa. Non che non abbia da dirti cose dolci, ma è così stretta e tortuosa la conchiglia a contenerle che ne escono stanche del viaggio, stegnose, di cattivo umore, fragili. Si frantumano durante il percorso, vibrazioni disperse, niente più. E allora fissiamo gli istanti in una foto. Sì, parlami di noi, delle nostre mattinate, del tuo caffè amaro. Il tuo ginocchio dalla pelle chiara, il tabacco con la cenere sul punto di cadere, e me che contemplando i bambini ti amo come una scalinata senza storia. Le tue parole mi fanno paura. Adesso sarà un addio davvero. Resta soltanto un ultimo salto, quello che conclude. La mia voce non ti può arrivare, ma il mio pensiero è unito a te e ti chiama amore. Non mi chiamare, non ti sentirei. Posso soltanto rimirarti nelle giornate piene di sole, sotto la ripetuta carezza dei fucili. Se un giorno sentirai la violenza di uno sguardo, non rompere l'incanto. Continua a filtrare il mio caffè e lascia che per sempre io viva per te in quel perenne istante. Io non credo ai presagi. Partendo per il Congo, il CE aveva dato a Fidel una lettera senza data, da leggere, aveva detto, al momento opportuno. Questo momento Fidel lo trovò alcuni mesi dopo, il 3 ottobre del 1965, 2 anni prima la morte del CE. La piazza era gremita di gente. Fidel lesse la lettera. Del compagnero Ernesto Guevara. Y dice así, Habana, año de la agricultura. Fidel. Sento di aver compiuto quella parte del mio dovere che mi legava alla rivoluzione cubana nel suo territorio. E mi congedo da te, dai compagni, dal tuo popolo, che ormai è anche il mio. Rinuncio formalmente ai miei incarichi nella direzione del partito, alla mia carica di ministro. Altre terre nel mondo reclamano i tributi dei miei modesti sforzi. Io posso fare ciò che a te è negato dalla tua responsabilità alla testa di Cuba. Ed è giunta l'ora di separarci. Se la mia ultima ora mi raggiungerà sotto altri cieli, il mio pensiero andrà a questo popolo, e in particolare a te. Non lascio ai miei figli e a mia moglie nulla di materiale, e che così sia non mi addolora, che così sia mi rallegra. Non chiedo nulla per loro, perché lo Stato darà loro quel che basta per vivere ed educarsi. Fino alla vittoria sempre. C'è. Invece, pochi mesi dopo era tornato, come in un ritorno dagli inferi. Fu la forza di persuasione di Fidel a convincerlo a tornare nella sua patria. Sì, perché il Che, nato in Argentina nel 59, era stato nominato cittadino cubano di nascita, privilegio unico. Ma la sua venuta a Cuba fu una breve parentesi che doveva rimanere segreta. Fidel aveva radunato a San Andrés per l'addestramento i compagni che l'avrebbero seguito in Bolivia, nel cuore dell'America Latina, dove il Che sognava di portare la rivoluzione. Io spiavo il suo arrivo da lontano. Era così trasformato che nessuno lo riconobbe. Finché una battuta ironica, tipica del Che, fu una festa piena di entusiasmo. Da quel giorno io salì più volte a San Andrés. Momenti che conservo in fondo al cuore. Prima di ripartire volle vedere i figli, ma non poteva farsi riconoscere. Temeva che i due più grandi raccontassero che il papà stava a Cuba. Era in pericolo il progetto Bolivia. Ai bambini dicemmo che era un uruguaiano, amico di papà. I quattro in giardino giocavano, ridevano, litigavano, esaltati all'idea che quel signore così gentile avrebbe poi detto tutto a papà. Ma lei dita in una corsa frenetica cadde, battendo la testa. Il Che corse subito a curarla con tale delicatezza che lei mi disse con tono segreto, ma che lui riuscì a sentire: mamma, quell'uomo è innamorato di me. Ci guardammo, pallidi entrambi, tanto fu l'emozione. Era già partito. Dei compagni mi portarono una poesia. Mia unica nel mondo. Vado a edificare primavere di sangue e pietra. E nel vuoto della mia assenza ti lascio questo bacio senza domicilio conosciuto. Ti porto sul cuore. Proseguiremo insieme fino a che la strada non svanisca. Tornando a casa ho pianto, ma senza farmi vedere dai bambini. Di nuovo l'incertezza. Qualche notizia attraverso qualche compagno. E in dicembre un ragazzo peruviano mi ha portato una lettera. Il Che in Bolivia non riusciva a organizzare solidamente la guerriglia. Era gente diversa dai cubani. I contadini, che avrebbero dovuto essere i suoi alleati più fedeli, tradirono più volte. Gli appoggi promessi dal Partito Comunista non arrivavano. Gelosia, differenze ideologiche. E accadde quello che mai mi aspettavo. Nel 67, in ottobre, 2 anni dopo quell'ultimo breve ritorno, fu annunciata la sua morte. Si tenne una veglia funebre solenne 10 giorni dopo nella Piazza della Rivoluzione. Più di 1 milione di persone, uomini e donne arrivate da ogni parte di Cuba, ascoltavano in un silenzio assoluto. Ripresi a vivere, dovevo, per i figli, perché non risentissero troppo di quella dura prova. E continuai a occuparmi di lavori sociali utilizzando i miei studi. Un giorno Fidel mi mandò a chiamare. Dei compagni dalla Bolivia avevano rischiato la vita per portare a Cuba il diario di guerra del Che. Fidel mi chiese di trascrivere quelle pagine preziose. Lo erano, sì, ma per me in modo differente. Avvertivo l'impronta del Che, la sua mano, quella calligrafia che solo io sapevo interpretare. Sentivo i suoi sbalzi d'umore, le emozioni, la speranza, la disperazione subito scacciata. La pubblicazione del diario fu un successo. Il Cevi aveva descritto le sue teorie, le idee per una nuova società civile. Fidel ne fece stampare migliaia di copie, gratis, per tutti. Alle librerie vecchi e giovani formavano file lunghissime per prenderne una copia. Passarono 30 anni, pesanti come piombo. Una fredda mattina in Bolivia, a Valle Grande, apparve la fossa dove erano sepolti i compagni caduti, e fra di loro il Che. Più volte aveva detto che morto voleva tornare in quella che considerava la sua patria, e fu quella la meta per il suo riposo. L'isola tutta si inchinò al Che al passaggio della sua bara. Volti in lacrime, occhi fissi nel ricordo dell'eroe, giovani che ne ricevevano la memoria. Quei figli ormai cresciuti fece il viaggio fino a Santa Clara. Lì avrebbe riposato, nella terra amata della sua vittoria. Portavo con me lo scialle di seta nero che aveva sostenuto il suo braccio ferito. Me lo aveva restituito in Tanzania quando ci incontrammo. Non mi disse il perché, ma voleva, pensai, che avessi qualcosa del suo corpo. Diedi a Celia, la mia figlia piccola, lo scialle, che lo ponesse accanto a suo padre. Di notte, in segreto, il rito fu compiuto, a suggellare la mia unione con il Che. Ci saranno fiori per ricordarti, parole, cieli, piogge d'autunno, e vivrai senza corromperti, perché eri riuscito a farlo in vita. Libero da ogni avversità, dormi tutto l'orgoglio della tristezza. De tu brazo libertario. Aquí se queda. confidente decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Che Guevara.